momenti di alterata coscienza, stadi alternati di insana incoscienza. Quando è che metti da parte sta falsa innocenza? Raccontamene tu. Ho firmato io la bolla, una in più. Stati di alterata coscienza, stadi alternati di insana incoscienza. Quando è che metti da parte sta falsa innocenza? Raccontamene tu. Una in più, una in più, una in più. Solito agosto senza ganja, Desolandia, ormai vanno tutti di bamba. Trovi un freak andante che mastica un funghetto e qualcun altro stretto sotto al giro del fumo più pacco. Pianifico coi cani, si chiama su a Milano, zero news, ma già che ci siamo, perché non Lugano è in diretta. In più ci vorrà giusto un'oretta di più. Buona questa, si parte senza fretta, su verso Chiasso, dritto ancora con la smania tra la scimmia e il viaggio spasso. Bollino ed autostrada, casello, formicaio, zona parco in centro, neanche un canapaio. Giusto lì uno che spinge, scambiamo per due soldi quel che spinge. Assaggiato bene, spinge, indaghiamo sul dove s'attinge. Lui ci indica un orefice, non finge, dentro neanche parlo, prezzo cash fatto. Il commesso tiene il sottovuoto sotto banco e a noi resta giusto il come trasportarlo. Il piano è fare un pacco regalo e poi spedirlo. A giorni due dal viaggio me ne esco distratto, e quando torno a casa il mio vicino di scatto mi blocca sulla porta con porta DHL. Ho firmato io la bolla, ho fatto bene, grazie mille.